Il messaggio delle rane. Servivano proprio quelle rane per convincere il faraone di quello di cui doveva essere convinto. Lezione sulla parasha di Vaera, la parasha in cui si inizia a parlare delle famose piaghe. Una grande parte delle piaghe, gran parte delle piaghe sono raccontate in questa parasha. Però, quando leggiamo questa parasha e tutto questo concetto delle piaghe, piaghe in ebraico si dice makot, makot letteralmente sono colpi, no? 10 colpi colpì il Signore agli egizi in Egitto, che piaghe è una traduzione non proprio esatta, non è che si tratta di piaghe necessariamente, no? Alcune di loro forse possono essere definite piaghe, però colpi è più generico e più, diciamo, include più il concetto. Ma diciamo, uno legge questo e dice questo non rientra nella nostra cultura, cioè, colpire. Sembra una cosa molto ebraica, ma tra l'altro non sembra neanche una cosa molto, sempre considerata molto, molto efficiente, cioè molto produttiva come cosa. Non è che tu colpisci e risolvi, no, devi risolvere alla radice, devi fare un lavoro un po' più approfondito, come si racconta di quello che era arrivato quasi a Kippur, era la vigilia di Kippur. E Kippur è il giorno in cui noi chiediamo il perdono, chiediamo l'espiazione dei nostri peccati, e questa era una persona che credeva di non aver fatto alcun errore nel corso di tutto l'anno passato. Evidentemente era molto sicuro di sé e gli ha detto: io quest'anno non ho fatto male a nessuno, non sono stato disonesto, non ho fatto nulla di male, ho fatto tutte le mitzvot, come posso affrontare Kippur senza alcun peccato? Qualche piccolo peccato ci deve essere prima di Kippur per poter rientrare, diciamo, nello spirito del giorno. Allora scende da casa, incontra il vicino di casa. Abbiamo parlato di colpi, no? Gli molla una sberla di quelle e se ne va. Così ho fatto il mio peccato. Quando torna a pranzo, incontra per le scale Grazie, grazie. la moglie di quello là, e lo confronta, gli dice: scusa, ma sei stato tu che hai dato uno schiaffo a mio marito? Dice: beh, effettivamente sì, sono stato io. Guarda, non sai che mitzvah che hai fatto. Allora, qual era veramente lo scopo di questa dimostrazione? Perché era una dimostrazione, se HaKadosh Baruch Hu avesse voluto, in un secondo avrebbe risolto tutto. Di queste piaghe, questi colpi, uno dopo l'altro. In teoria sarebbe bastata una cosa per dimostrare chi è capo e basta andare fuori, Esodo. A che cosa serviva tutta questa cosa? In realtà, se guardiamo le fonti, che adesso citeremo, sembra come se si volesse dimostrare la propria forza. Posso fare questo, posso operare su questo ambito, su quell'ambito, Da cose più piccole a cose più grandi, esattamente, andando in crescendo, crescendo, certo. eccetera, eccetera. E alcuni commentatori suddividono le 10 piaghe, 10 colpi, come li chiamo io, in varie categorie, che possono essere, diciamo, messe nelle categorie di... Alcune sono di natura economica, cioè vanno a colpire l'economia, altre sono di natura proprio di colpi di quelle che sono più adatte alla parola piaghe, cioè quelle che vanno a colpire il corpo delle persone, che portano sofferenza, dolore, eccetera. E c'erano quelle che Colpiva la discendenza. colpivano psicologicamente e la vita stessa nella discendenza, futura. eccetera. Eh? Futura, ovviamente. È la futura, certo. Se noi però, se vogliamo fare l'elenco un attimino dei colpi, delle piaghe e delle categorie nelle quali rientrano, allora, quelle economiche sono chiare, quello del Nilo, quello degli animali che morivano, eccetera, Sicuramente. quelle piaghe vere e proprie, no? Pidocchi, eccetera, quelle che colpivano la vita, la qualità di vita degli egizi, come di nuovo, anche qui rientra di nuovo il sangue del Nilo, rientra qui anche la locusta, eccetera. La piaga delle rane, che era il titolo del tema del discorso, in teoria non rientra in nessuna, in alcuna di queste categorie. Perché alla fine la piaga delle rane era, diciamo, un grosso disturbo che ha arrecato alle persone, ma non una vera e propria piaga, no? Non un vero e proprio colpire. Era praticamente la piaga che le rane erano dappertutto, ok? Però non era una minaccia alla vita. E non si poteva definire come una piaga come le altre. Persone si adattano, si abituano a vivere con tantissimi tipi di problemi, in base al tipo di clima in cui si trovano, in base al tipo di condizioni e circostanze in cui si trovano. Ci sono persone che purtroppo si abituano a vivere in galera per 35 anni o per 40 anni o per tutta la vita. Ci sono persone che si abituano a vivere in Siberia con le condizioni che sono lì. Cioè, è una condizione di vita molto difficile, però non è un colpire al cuore delle cose come le altre piaghe, le altre makot. Tra l'altro, si dice che gli egizi, come oggi troviamo magari in paesi orientali come la Cina e altri luoghi così, che la gente si ciba di questo tipo di animale, gli egizi si cibavano delle rane. È E una per cosa questo che sono e per questo è oggi molti. anche oggi molti si cibano delle rane, E per eh? questo sono rimaste lì e non sono scomparsi come gli altri animali. Forse per questo sono rimasti lì, Sono gli sì. animali che sono C'è rimasti lì. scritto che sono rimasti, bravo, e loro li hanno messi sotto aceto, sotto Esatto, sale, perché eccetera, vanno eccetera. Che mangiati. ancora oggi molti fanno. Quindi non è una cosa così talmente Anzi, fuori forse è de... un regalo, forse. Forse un Buon regalo, dice Natale. Cesare. Può darsi. Però c'era un discorso diverso sul Nilo. Oh, bravo, bravo, ecco. Allora, la domanda è appunto, no, per arrivare a questo, qual è lo scopo di... in mezzo a tutto questo mare di sofferenza che le piaghe hanno portato, qual è lo scopo di questa cosa specifica di questa piaga delle rane? Tra l'altro, la domanda, diciamo, la questione diventa ancora più interessante dal momento che, come vedremo adesso nei vari commenti, è quasi come se questa fosse una piaga centrale, importante anche rispetto alle altre piaghe, cioè un colpire proprio in maniera molto mirata, molto intensa, se vogliamo. Perché? In cosa si esprime? Allora, adesso guardiamo la prima fonte. La prima fonte dice, al numero 1, Shemot, c'è scritto nel capitolo 8, Vayomer Moshe le parò. Hitpa'er alai. Feschi, prendi il Humash di Mamash, per favore. Così vediamo la traduzione per bene. Vayomer Moshe le parò. Mosè disse al faraone: Hitpa'er alai. Hitpa'er alai vuol dire. Adesso voglio vedere come lo traduce esattamente. Come dire, fammi vedere quello che puoi fare. Ok? Cioè, Mosè dice al faraone: io ti faccio vedere quello che posso fare. Tu dimmi quale sarà il momento in cui vuoi che le rane, che cessa questa cosa delle rane. Dimmi il momento esatto e io pregherò che accada in quel momento esatto. Un po' più giù. Sì. Eccolo qua. Il faraone si lamenta. e dice: implorate il Signore affinché rimuova le rane da me e dal mio popolo, e io lascerò andare il popolo vostro a offrire sacrifici al Signore. Allora, ecco come dice, Mosè dice al Faraone, Hitpaer alai, gloriati su di me. Per quando vuoi che implori in favore tuo, dei tuoi servi e del tuo popolo, di eliminare le rane da te e dalle tue case affinché rimangano solo nel Nilo? Dimmi tu, che ora, che giorno? Disse il faraone, per domani. Ok? Mosè disse, sarà come dici affinché tu sappia che non vi è come Hashem il nostro Dio. Ok? Conclude il discorso dicendo: le rane si ritireranno da te, dalle tue case, dai tuoi servi e dal tuo popolo, rimarranno solo nel Nilo. Ecco una chiave, rimarranno solo nel Nilo. Come diceva Lello, l'Ibn Ezra, il commentatore Ben Ezra dice, Mautam, abbiamo citato, Mautam Bayorti Sharna, per quale motivo devono rimanere nel Nilo? Che significato ha? Cioè, rimangono dove vogliono rimanere. Se vanno nel Nilo, vanno nel Nilo. Se vanno in uno stagno, vanno in uno stagno. Perché è importante sottolineare rimarranno nel Nilo? Rashi, e che tra l'altro questo è anche quello che diceva Cesare, non sono sparite le rane, sono rimaste, ma circoscritte alla zona del Nilo, al Nilo stesso. C'è qualcosa che il faraone deve captare, deve essere recettivo a questa cosa come messaggio, Avrebbe dovuto. avrebbe dovuto, che è legata questa cosa a queste rane. Ora, Rashi dice, e dalle parole di Rashi possiamo arrivare ad un punto molto interessante nel precisare le parole di Rashi. Rashi dice, Yesh ta'am ba'agadah, nelle agadot, cioè nelle parole dei Midrashim, danno delle motivazioni lechol makkah ve makkah, per ognuna delle piaghe. Lama zo ve lama zo, perché questa e perché poi seguita da questa. Betachsisei milchamot ba'alehem, ovvero Rashi dice, citando i Midrashim, che alcuni maestri spiegano, che era come una strategia militare, quella dei successivi colpi, diciamo così. Che Seder Malchut Shezara al-Ir dice nello stesso schema che userebbe un governo, un militare, un esercito, Entra una città. quando esercita un assedio Assedia una intorno ad città. una città. Prima cosa cerca di rovinare l'acqua, di avvelenare in qualche maniera. Batchila mekalkel mayanotea. Prima cosa, cerca di rovinare in qualche maniera le fonti di acqua. E questo è Makaddam, corrisponderebbe alla piaga del sangue che Sangue. colpisce l'acqua dell'Egitto. Shekilkilat amai. Veacharkach tokim alehem Umerim bashofarot, e poi fanno dei rumori, dei suoni, tokim, come tekiah dello shofar, no? Facendoli impaurire, facendoli intimorire, spaventare. E questo, dicono i Midrashim, sarebbe stata la funzione delle rane che fanno molto rumore. E quando escono milioni di rane insieme, iniziano a fare il loro suono, questo sarebbe, corrisponderebbe a questo aspetto della cosiddetta, diciamo, guerra. Un'altra cosa, cioè, allora qui già vediamo che c'è una funzione importante in queste rane, non è solamente un disturbo, è all'interno di un programma, diciamo, hanno la loro funzione, però bisogna approfondire un po' di più. Rashi sottolinea nelle sue parole che ci sono due aspetti. Se voi vedete le parole che sono sottolineate, che sono, come si Rimarcate. dice? No, sono in grassetto, le Yaream Ulevahalam, per farli impaurire e per farli spaventare, essere spaventati. Perché deve dire questo in due termini? Una sarebbe bastata. Rashi sottolinea che c'è un doppio scopo. Il significato è che durante, mentre avviene la piaga delle rane, c'è un elemento di spavento. Spavento è una cosa vicina. Sono spaventato, non so cosa fare, non mi muovo per la paura, ok? Ma anche dopo che sono andate, che è cessata la piaga, rimane la ira, il timore. Di cosa potrebbe accadere? È un doppio aspetto, quello che accade durante e l'effetto che rimane per fatto che perché cosa è successo e che rimane quindi impaurito anche per il futuro. Un'insicurezza che rimane a causa di quello che è accaduto e quindi che non si risolve nel momento in cui cessa la piaga stessa, perché rimane nel cuore quella paura. E quindi è un doppio colpo. Che le rane rimangano nel Nilo risponde a questo discorso qui. Le rane sono sempre lì. Rimane la paura anche dopo che finisce la piaga. E questo lo spiega in realtà il Rebbe in un suo discorso che mette a fuoco queste due parole di Rashi. Dice perché deve dire doppio? Doppio. Perché deve dire doppio? Molto bene. Perché ci sono questi, c'è un doppio aspetto. È come all'epoca, Lello, quando eravamo piccoli, che ancora i maestri ci picchiavano a scuola, no? Però i maestri che erano veramente bravi non dovevano picchiare. Se succedeva, se stava per succedere su qualcosa, cosa devono fare? Devono solo indicare il frustino. Non lo dovevano usare. Quello che stava appeso lì sul muro dovevano solo indicare, bastava. C'era chi Vabbè, quelle bastava sono le rane che sguardo. stanno dentro al fiume. È il frustino che sta sul muro, eh? Dicevo due cose. C'era chi ti metteva dietro la lavagna. Questo pure a scuola ebraica, E qui eh? E che ti batteva le le gambe dita, ah, le gambe. seduto sui ceci. E Mamma mia. invece Parliamo di cose c'era buone. chi ti bastava uno sguardo È bravo, quello, e quello sicuramente era il più bravo, quello che bastava lo sguardo. Allora, un altro aspetto, il Midrash che adesso citeremo, Shmot Rabbah, affronterà anche questo Midrash seguente la domanda della necessità di questa piaga delle rane, ma da un punto di vista più profondo, facendo in realtà, ponendo la domanda, qual è la funzione in realtà di ogni cosa che è stata creata, che sicuramente se è stata creata ha qualche funzione, no? Allora il Midrash dice così, guardiamo le sue parole, Shemot Rabbah, è il paragrafo prima del numero 2. Shemot Rabbah, l'altro paragrafo ve l'ho detto a voce, Affilo Devarim, sì, certo. Afilu Devarim She'atah Ro'eh, anche, persino, delle cose che tu vedi che ilu hen meyutarim ba'olam, sembrano, vedi degli elementi, delle cose, degli oggetti, degli animali, quello che sia, che sembrano a te siano superflui. Per quale motivo deve esistere questo? Non c'è motivo che io possa capire. Ok? Kegon, Nechashim, Ve'akrabim, dice, tu potresti guardare alcuni elementi del mondo animale e nella tua ignoranza, o nella mia ignoranza, potrei dire, questo, a che cosa serve? Guarda quel serpente, ma a che cosa serve quel serpente? Guarda quello scorpione, ma a che cosa serve? Chi ne ha bisogno? Magari qui è vero. Eh? Dico, magari qui è vero. Dove qui? Ok, Dove siamo? Un serpente, uno scorpione, non no, so. no, ma dico, no, No, dico scherzo, dai. sinceramente, nell'ignoranza, Sì. no? È chiaro che ogni cosa ha una funzione, però uno che non capisce dice, scusa, questo non serve a niente. Certo. Anche in un contesto dove può servire, no? Per dire. Sì. En ayubi chlalberi atosha l'olam. Il Midrash dice, fanno parte della creazione. Dal momento che fanno parte della creazione, te dale hashken sappi che è così e E la prova è, adesso farà una sua prova, che riguarda la rana. Dice, Sheilulei HaTzvardea, uno potrebbe nell'ignoranza, nell'insaputa, dire la stessa cosa della rana. Che cosa serve la rana? Cosa mi contribuisce la rana? E Achaya Porea Minamitzrim. Cosa sarebbe stato la piaga contro gli egiziani se non fosse per la rana? Come se la cosa più importante delle piaghe è la rana. Cosa vuol dire? Il Midrash sottolinea che la rana è talmente importante che se non fosse per la rana le piaghe contro l'Egitto non sarebbero state una cosa completa. Molto interessante, dobbiamo capire. Non sarebbe stato possibile creare una breccia, no? Nell'esempio dell'assedio, nella metafora dell'assedio, non sarebbe stato possibile aprire la breccia se non per la rana. Perché? Che numero di piaga è? La seconda? Seconda piaga. Allora, cerchiamo di affrontare questa cosa dando un attimino una panoramica, una visione un po' più panoramica su tutto il periodo delle piaghe, perché noi leggiamo in 2 settimane le parashot che parlano delle piaghe come se fosse una cosa accaduta così in 2 minuti. Ha fatto una piaga, ha finito l'anno? Un anno. Invece è durato, secondo la tradizione, circa un anno. Ora vediamo qual era lo schema secondo il quale ha funzionato questa cosa, tutta questa idea delle piaghe. Allora, i maestri dicono che in realtà dalla Torah stessa questa cosa non è esplicita. In qualche maniera è implicita, però bisogna capire come scavare in queste allusioni. I maestri dicono, scusate, la Torah ci dà solamente una data. Una data. Un'indicazione di un giorno, di un momento nel tempo, ed è il giorno in cui conclude tutto questo periodo, e cioè il giorno dell'Esodo. E questo conosciamo la data perché lo dice la Torah, il 15 di Nisan. Ma tutte le altre date precedenti di tutto questo periodo, la Torah non lo dice esplicitamente. Ok? Quando è che è iniziato tutto? Allora, come diceva Cesare, i maestri arrivano a capire, dalle varie allusioni, che il tutto accade 12 mesi prima. Alla fine della Parashah di Shemot, quando abbiamo visto quello che abbiamo letto alla fine della Parashah dello sabato scorso, che Mosè ha visto che dal momento che lui è andato dal faraone le cose si sono fatte ancora più difficili per gli ebrei, perché hanno aumentato la persecuzione. Sembrava proprio per causa del fatto che Mosè si è intromesso in tutto il discorso. Mosè ha detto al Signore: perché? Perché tutta questa sofferenza? Perché dovevo venire a fare tutto questo discorso se poi è servito a rendere peggiore la situazione? Allora a quel punto cosa c'è scritto? Il faraone come ha espresso questo peggioramento? Dovete andare voi da soli a raccogliere. Che cosa devono raccogliere? La paglia, che sarebbe stata usata poi per formare i mattoni. Quando si raccoglie la paglia? La paglia è secca. Nel periodo dopo Pesach, periodo primaverile estivo, mese di Iyar, questo è uno dei riferimenti, una delle allusioni. E quindi da qui possiamo iniziare a capire quanto tempo ha durato tutta questa cosa. E ora vediamo lo schema di ognuna delle piaghe, che seguivano tutte lo stesso schema. Abbiamo una Mishnah, se vedete il trattato di Eduyot, è qui al numero 2. Nella Mishnah di Eduyot è scritto: Mishpat Dor HaMabul. Il giudizio, ma nel senso la punizione che è stata portata sulla generazione del Mabul. Cos'è il Mabul? Il diluvio è durato Shnem Asar Chodesh, 12 mesi. Mishpat Mishpat Mitzrim, la punizione contro gli egizi è durata quanto? Shnem Asar Chodesh. E poi fa alcuni altri esempi simili, sempre 12 mesi, concludendo con Mishpat Reshaim Begeinam, il giudizio, la punizione contro i malvagi nel purgatorio, nel Geinom, Shnem Asar Chodesh, 12 mesi. Vuol dire che la punizione arriva a un massimo di 12 mesi, sempre, in tutti i casi. Nel libro Seder Olam è scritto, Shneemar, citando il versetto di cui parlavamo prima, Vayafetz ha'am bechol eretz Mitzrayim, il popolo si sparse in tutta la terra d'Egitto per le koshesh kash la teven, per raccogliere questa paglia per il teven, per fare i mattoni, no? E matai akash matruisham? Quando è che in quella zona si trova la paglia? Beh, Iyar, nel mese di Iyar, sarebbe il mese dopo Pesach. Vem yatzu ben Nisan, e loro sono usciti dall'Egitto a Nisan. Vuol dire che era esattamente 12 mesi. Mikan shelakua mitzrim shnei masar chodesh. La punizione è durata 12 mesi, cioè le piaghe sono durate 12 mesi. Ok? Molti maestri dicono che, ecco, 12 mesi, ma vogliamo capire quanto è durata ogni piaga, no? Quanto tempo è durata, perché sono 10 piaghe, 12 mesi. Come funziona questa cosa? Molti dei commentatori spiegano che le piaghe stesse sono durate 8 mesi e mezzo, cioè, seguendo il seguente schema. Da 8 mesi e mezzo vuol dire da Rosh Chodesh Av, Av è il mese estivo di Tisha B'Av, okay? Quindi da Av fino a 15 di Nisan sono 8 mesi e mezzo. In che maniera erano suddivise le piaghe nel corso di questi 8 mesi e mezzo? Una settimana l'acqua del Nilo rosso, insomma. Allora, una settimana è così. Ogni piaga sarebbe durata un mese, però in che maniera? Una settimana è effettivamente il momento in cui il periodo della piaga stessa. Massimo, il top. La piaga, dall'inizio alla fine della piaga. Cioè per dire, sangue nel Nilo, il Nilo era sangue per una settimana. Ok? Poi, 3 settimane in cui lo ammoniva, gli diceva: sei pronto a lasciare partire gli ebrei, se no ci sarà un'altra piaga. Doveva essere anche ricevuto dal faraone, dunque c'è tutto un rito, Sì, anche erano 3 settimane che lui gli dava, il martirio. come si chiama? Gli mandava La le conserva. cartelle esattoriali, no? Scusa, ma se sono 8 mesi e mezzo e Sì. le piaghe sono 10, come funziona? Allora, aspetta un attimo. 8 mesi passano 8 piaghe, vuol dire dalla piaga del sangue, fino alla piaga, l'ottava piaga, che è quella dell'arbè, della locusta, delle cavallette. La piaga della nona piaga, qual era la nona piaga, vi ricordate? La penultima è quella, Oscurità. l'oscurità. Oscurità. L'oscurità è esplicito sulla Torah che è durato solo 3 giorni. Questa piaga è durata solamente 3 giorni ed era all'inizio di Nisan, Un po' meno di 3 giorni. perché è un po' meno, 3 giorni, eh? Vabbè, non me la ricordo allora. 3 giorni, c'è scritto, la Torah lo dice, 3 giorni è durata la piaga dell'oscurità e nello stesso mese di Nisan, il 15° giorno, lo stesso giorno dell'Esodo, è accaduta l'ultima piaga, la piaga dei primogeniti, che era solo quel giorno, quel L'altra momento, notte, sì. quella notte, diciamo così. Allora, questo è esplicito nel commentatore Rabbeinu Bechaye, o Rabbeinu Bachye, come alcuni dicono, Miyom Shehitru Befarò, dal giorno in cui hanno portato a Farò la notizia, attento a te, se non farai così, non farai lasciare gli ebrei uscire dall'Egitto, ci sarà questa piaga. Ichbid Alehem Avodah, dal primo giorno, come abbiamo detto prima, alla fine della parasha scorsa, il lavoro è diventato più duro. Ve'amar Moshe la Kadosh Baruch Hu, e Moshe protestò contro, se si può dire, a Kadosh Baruch Hu, e gli disse: Lama Hareota, perché hai fatto male, hai reso peggiore la situazione del popolo. Venit Kasesh lo Shacho Dashim. Moshe in qualche maniera si è ritirato per 3 mesi. Midrashim dicono che quando Moshe ha visto la reazione del faraone e l'effettivo peggioramento sulla vita degli ebrei, ha detto: scusa, cosa ci vado a fare? Peggiorare la vita dei miei fratelli? Si è nascosto. Per 3 mesi ha detto: non capisco cosa succede qui. Che parola è questa? Quale? Quella subito dopo. Iyar, e c'è una yud in più. Ah. Non è un errore, devono essere 2 yud. 3 mesi, Iyar, Sivan, Tamuz, e le Makot, Nimza, il risultato è, Shamakot itchilu bechodesh Av. Le Makot sono iniziate nel mese di Av, quindi Dam be'Av. La Makah del sangue nel mese di Av. Svardea, quella delle rane, nel mese di Elul. Fino al mese di Adar, che lì c'era la Makah di Arbe, abbiamo già detto prima, la locusta. Shekol Makah nimshecha chodesh. Ognuna delle piaghe è durata 1 mese, di cui, mitochan, di cui, shiva yamim, 7 giorni del mese, befoal, era effettivamente la piaga, la durata, ve oj shlosha shavuot shayamatre balehen, e le successive 3 settimane erano le settimane in cui lui di nuovo richiedeva: lascia gli ebrei, se no succederà così. Poi, come abbiamo detto, Makat Choshech ben Nisan, i primi 3 giorni di Nisan era la piaga dell'oscurità, e l'ultima piaga era solo quel giorno dell'esodo, Becholot Belel Tet Vav, il giorno 15 di Nisan. Allora, questa storia delle piaghe è un lungo film che veramente ha cambiato la vita al popolo egizio in quel momento, non in quel momento, in quell'anno intero. Quasi anno intero. Allora, servivano pure le rane? Erano così essenziali? E tra l'altro, cosa era veramente lo scopo di tutta questa lunga, diciamo, questo lungo percorso? C'è anche una perplessità nel versetto. Leggiamo il versetto. Numero 3. Emor el Aharon, riguardo alla piaga delle rane, Akadosh Baruch Hu dice a Moshe: di ad Aharon, nete et yadecha, alza la mano, leggo la traduzione da qui che fa meglio di me, stendi il braccio con il tuo bastone sui fiumi, Matrala Nearot, alla Yeorim, sui canali, ve alla Agamim, e sugli stagni, ve ha'al et atzfardeim, e fa emergere le rane al Eretz Mitzrayim, sul paese d'Egitto. Prossimo versetto, sempre qui citato, vayet Aharon et yado, quindi il primo è il comando. Kadosh Baruch Hu dice a Moshe: di ad Aharon di fare così, e far emergere, e questo farà emergere le rane. Nel secondo versetto si descrive l'effettivo accaduto. Vayet Aharon et yado, Aharon stese il braccio, al meme Mitzrayim, sulle acque dell'Egitto, vata'al hatzvardea, e la rana emerse, vatechas et eret Mitzrayim, e coprì il paese d'Egitto. Perché prima nella comando si parla di rane e nell'effettivo si parla di una rana. Almeno questo è il termine usato che la Torah usa. Allora, primo perché? E in secondo luogo, perché? Come può una rana essere una minaccia, una piaga contro l'Egitto? Allora, in questa perplessità ci sono 2 opinioni su una possibile soluzione nel Talmud. Subito citiamo il Talmud, Sanedrin. Talmud in Sanedrin dice: Rabbi Akiva Omer. Rabbi Akiva dice: Svardea achat haita. Era una sola rana, ma questa unica rana diede alla luce subito un numero infinito di uova e di rane che vennero fuori. Ci sono le uova? Le rane danno le uova, no? C'hanno i girini. E i girini, le... Cioè, diretto uova, girini o uova? Certo che c'hanno le uova. Uova e girini. Uova e girini. C'è l'uovo, c'è il girino. No, perché non mi ricordo, perché mi ricordavo direttamente le girini. Riccardo, tu dovresti essere l'esperto, eh? No, ricordavo, allora, Sharra ci stava, era pieno. Vero. Rabbi Akiva dice, era una rana, che però un maleà coler Mitzrayim, da questa unica rana si è riempito tutto l'Egitto di rane. E Shritza bimeirut milionei tzvardim. Amar lo Rabbi Alazar ben Azaria. Molto interessante questo scambio. Disse Rabbi Alazar ben Azaria a Rabbi Akiva. Anche nella Gadà di Pesach discutono tra di loro Rabbi Akiva e Rabbi Alazar ben Azaria. Disse Rabbi Elazar ben Azaria a Rabbi Akiva, Akiva, malecha etzel agada, cosa c'entri tu con l'esegesi dei versetti, la agada? Non sai cosa stai dicendo. Kale mi dabrotecha velech etzel negeim ve aholot. Cessa di parlare di questo e parla piuttosto delle complicate halachot, delle negaim, cioè della tzarat e delle aholot, delle regole di impurità, che sono legate a un concetto che si chiama ohel. Cioè, Rabbi Akiva ha parlato di un midrash molto difficile da capire. Una rana, da questa rana, miliardi di rane sono uscite fuori per coprire tutto l'Egitto. Rabbi Elazar ben Azaria ha detto, questa è una spiegazione un po' spinta. Meglio che tu parli di Halakha, che tu sei più esperto forse di Halakha che di Haggadah, disse a Rabbi Akiva, anche se in realtà Rabbi Akiva ha parlato molto di Haggadah, però in questa circostanza gli ha detto così. E Rabbi Elazar ben Azaria conclude con la sua interpretazione, che è questa. Tzvardea achat aita. Era in realtà un'unica rana che è venuta fuori dal Nilo o dalle acque, non... Però, sharkala hem vehembau, che letteralmente vuol dire, fece un fischio e vennero tutte le altre rane. Una rana ha fatto sì, con il suo suono, che vengano fuori tutte le altre. E non devi dire, dice Rabbi Lazar ben Azaria, Rabbi Akiva, che da questa rana si è generato tutte le altre rane. Ha fatto sì che anche le altre rane la seguissero. Ok? Rashi cita Rabbi Akiva quando commenta la Torah. Rashi dice, in realtà non è veramente una citazione, sembra che simile a quello che dice Rabbi Akiva, ma in realtà è una terza opinione. Rashi dice, lo citiamo, Tzvardea achat hayeta. Anche lui dice come le altre due opinioni citate. Era un'unica rana, però vehayum makimota, la colpivano. E ogni volta che la colpivano uscivano fuori intere tribù di rane, himateset nechilim nechilim, molti generava molte rane. Non gli basta a Rashi quello che ha detto Rabbi Akiva e quello che ha detto Rabbi Elazar ben Azaria, perché deve citare una terza opinione? Cioè, stiamo parlando di una rana che aveva in sé milioni di altre rane. E quello che dice Rashi è più strano di quello che hanno detto sia Rabbi Akiva che Rabbi Elazar ben Azaria. Tra l'altro, c'è però una soluzione, cioè dall'altra parte c'è in Rashi una soluzione che non c'è nelle altre due opinioni che abbiamo citato. Perché il comando, ricordiamoci, c'era il comando e la descrizione dell'effettiva cosa. Nel comando era scritto fai salire le rane. E nell'effettivo ci si parla di una rana. Qual è la soluzione? Da questa rana sono uscite altre rane. Ora Bielazar ben Azaria dice, ha chiamato le altre rane. Ma se è così c'è un problema, perché il comando è di far salire le rane. Secondo queste spiegazioni dell'effettivo, non hanno fatto salire le rane. Era l'altra rana che ha portato le rane. Ma la prima rana non rientrava nel comando fai salire le rane, che è comando a Aaron, a Mosè di dire ad Aaron. Allora vuol dire che c'erano due fasi. Nel comando si parla di una fase, fai salire le rane dalle acque. Quindi non corrisponde bene ciò che è accaduto a quello che era il comando. Nella visione di Rashi, invece, si risolve questa cosa. Perché? Perché se noi vediamo cosa dice Rashi, cos'è diverso dalle altre cose? Che in questa rana c'erano già tutte le altre rane e attraverso il colpire uscivano fuori. E non che doveva in qualche maniera miracolosa generarli oppure chiamarli da altri luoghi, eccetera. Rashi vuole risolvere questo problema nella letteralità, diciamo così, tra i due versetti. E uno potrebbe chiedere, perché non fare tutta la piaga? Cioè Aaron fa salire questa rana e poi la colpisce in modo tale che conclude... No, avrebbe dovuto Aaron forse, non era Aaron, erano gli egizi. Questo ci insegna una cosa incredibile. Normalmente c'è una massima dei maestri che dicono chiunque inizia una mitzvah è bene che la concluda. Hamatchil be mitzvah, chi comincia a fare una determinata mitzvah, omrim lo, gli si dice gemor, concludila. Da qui noi possiamo invece imparare che questo è vero, ma se si tratta di una mitzvah che richiede il colpire, allora va bene anche se lo fa un altro. Non dobbiamo cercare opportunità per colpire. Ho fatto la mia parte, ho portato la prima rana, poi deve essere colpita, che la colpiscano loro. Funge pure da una Sefer Shema, sempre la stessa cosa pure, perché tu fai la prima cosa e poi il resto... La fai partire. Ok, questo è un altro aspetto. L'aspetto qui è, normalmente in alcuni casi non devi dire questo Nasev Nishma che stai dicendo tu, devi invece concluderla. Certo. Inizia e concludi, certo. Fai una cosa intera. Certo. Perché fare una mezza cosa? Fai la cosa intera. Qui dice, se riesci a cavartela facendo solo una parte, visto che è una cosa, tra virgolette, negativa, certo. No, non devi correre a fare la cosa negativa. Basta che lo fai il minimo... nella maniera che il minimo indispensabile richiesto. Il resto, se sarà fatto, allora non ci devi pensare tu. Molto interessante, cioè vuol dire è una lezione di vita, perché a volte ci sono delle cose che vanno fatte, ma sono antipatiche. Cioè, quella cosa va fatta. Ma forse molte persone decenti si sentono in difficoltà per fare quella cosa. Allora, se c'è qualcuno che va e corre e lo fa, grazie, meno male, meglio così. E non diciamo sentirti carente perché non l'hai potuto fare tu. Meglio che lo fa qualcun altro. Se si tratta di colpire, se si tratta di una cosa negativa, a volte va fatto, ma se c'è chi lo fa, bene, limitiamolo a quello che lo fa. Certo. Non però, non bisogna ampliarlo. Questo è interessante perché normalmente non solo noi diciamo chi inizia una mitzvah la deve finire, ma anche diciamo che bisogna, come abbiamo parlato diverse volte, bisogna abbellire le mitzvot, ampliarle, aumentare, fare più di quello che è richiesto. Questo ci insegna che non sempre va fatto più di quello che è richiesto. Dipende anche dal contesto e dal tipo di mitzvah. Un esempio... L'Alter Rebbe, l'autore del Tania, diceva tutte le mitzvot che riguardano il cibo, il mangiare, non bisogna abbellirle. In altre parole, non bisogna esagerare nel godimento del corpo. Uno dice, scusa, è una mitzvah, è Shabbat, è una mitzvah fare un bel pasto. Sì, è vero, è una mitzvah. E bisogna fare un bel pasto di Shabbat, non si può fare Shabbat senza fare un bel pasto. E non ingrassi. Però non esagerare. E se l'esagerazione trova la scusa che è una mitzvah, questo non si chiama abbellimento della mitzvah. Neanche mitzvah. E neanche mitzvah, forse. In altre parole, bisogna sempre avere dei parametri di contesto e di sensibilità, diciamo, a 360 gradi. Molto interessante, secondo me, questa cosa. C'è pure un altro, sì, altro visuale di questa storia, no? Mm-hmm. Che probabilmente gli egiziani non avessero bastonato la rana sarebbe rimasta unica. E quindi? Non sarebbe stata una piaga. Non sarebbe stata una piaga. E però non sarebbe rientrato in quello che era il comando. Quindi quello che dicevo prima andava fatto. Però se lo fa qualcun altro non lo devi fare tu. Alla fine corrisponde allo stesso discorso. Sì, ma era una doppia prova. Probabilmente tutte queste piaghe avevano un perché pure nel mettere alla prova il faraone e gli egiziani. Perché ah, certo, allora, assolutamente. Se si fossero fermati a quello, invece loro non hanno mai avuto... Bravo, era una doppia prova. Cioè, se loro non avessero colpito la rana, si sarebbero salvati loro stessi, in quel certo senso. In un certo senso avrebbero obbligato... Aaron a farlo primo, sì. E secondo voi probabilmente non sarebbero arrivati a tanto, si sarebbero fermati prima sulla strada delle bianche. Come non facciamo mm-hmm. i fanta. Comunque un esempio di questa cosa, un ultimo esempio legato a questo concetto è l'idea che nella Torah c'è scritto quando c'è una punizione. C'è nella Torah il concetto della punizione di frustate. Ovviamente dipende da un certo contesto, dipende da una certa situazione, però esiste il concetto. Quante sarebbero queste frustate? 10. No? 40. Però 40 è scritto sulla Torah. Ma i maestri capiscono dalla Torah che il senso è 39. Non si arriva mai a 40. Ora non si dà mai il massimo. Tra parentesi, non si dà neanche 39, nel senso la Halakha richiede che si faccia una valutazione medica per capire quante ne può subire, se ne può subire una ne prende una, però per dire al massimo non si può mai arrivare. Quando si tratta di colpire non bisogna cercare di rientrare. Sì. Devo rientrare nella regola, allora faccio esagero. Sì, se si tratta di aiutare, allora puoi fare così, però se si tratta di colpire, no. Sì. Sì. Sì. Il concetto che da una rana poi escono addirittura migliaia, se non milioni di miliardi, siamo proprio al di là del razionale. Beh, tutte le piaghe sono al di là della razionale. Sì, però parlando anche qui a volte ho percepito che Hashem può usare, diciamo, uno strumento che è naturale, sì, in un determinato istante, che diventa tra virgolette un miracolo. Qui stiamo completamente in una dimensione completamente non più, cioè, al di fuori del naturale, di ogni possibile risata, perché se fossero 10 potrebbero essere uova, se si parla di miliardi, cioè, quante uova escono davvero da una rana? No, onestamente no. Centinaia. Centinaia. Uova. Centinaia sicuramente. Centinaia sicuramente. Se non forse migliaia. Come un pesce, no? Simile. Sì, ok. Allora già non è una cosa così... assurda. Terribilmente assurda. Poi tutte le piaghe si riproducono. Questo volevo dire, se a loro volta ognuna di quelle centinaia si riproduce, in altre centinaia. Non è che è così difficile. Naturale, però. Sì. Ma poi tutte le piaghe sono bravo, sono non naturali. Certo. Questo ho detto, però questa delle rane è un po' meno sovrannaturale, diciamo, delle altre. Diciamo. Beh, questo è bravo, questo è un aspetto miracoloso che avviene così veloce. Ancora più miracoloso sono i serpenti, da battuta al serpente. Sì. Quello sì. Ancora più sì. Però quello non rientra nelle 10 piaghe. No, però anche in effetti le cavallette non è. Anche le cavallette è un esempio di una che non è necessariamente no, una. Ma il bastone di Vidocchio. Anche Vidocchio. Attenzione. Bello. Lo costo delle cavallette. Ok, signori. È il pastore che mangia il serpente. Ecco dove sta la sovranità della cosa. Non sarebbe stato sovranuale se il serpente avesse mangiato il serpente. È tornato un bastone. No, le locuste, perché le locuste hanno decimato, hanno mangiato tutto il prodotto della terra. Questo è quello che fanno. No. Sempre miracoli, però. Le rane hanno disturbato la quiete vivere, il quiete vivere. No. Ma secondo me è questa la chiave, diciamo, che colpendo la rana si sono moltiplicate le rane sì. E per colpa loro, degli egiziani, ecco dove sta la loro paura, la loro angoscia. Può darsi, molto sono, interessante. Sono come se sono. Si... Che... Esatto. Come se gli egiziani si fossero colpiti da soli. Ecco dove sta la paura. Che le... Anche questo è interessante. Stessi. Ok. Lo scopo di tutte queste piaghe è quella delle rane in particolare. Per uscire dall'Egitto bastava una cosa. L'esodo. Già, devo andare io tranquillamente. Se vogliamo non serviva neanche quello, cioè voglio dire, uscire dall'Egitto. Le piaghe non erano tanto perché gli ebrei escano dall'Egitto, quanto perché l'Egitto esca dagli ebrei. E questo è anche spiegato dalla Bravanel e da altri commentatori. Era per rompere, togliere dagli ebrei la mentalità, la prospettiva, il modo, la cultura di vedere le cose come la vedevano, come le vedevano gli egiziani. Era come una scuola, è durato un anno scolastico, 8 mesi e mezzo, era come una scuola per gli ebrei per imparare come una scuola di emunà, come dobbiamo... Dovremmo interagire, come dovremmo vedere il nostro rapporto con la Kadosh Baruch Hu, con la Emunah, con la fede in generale. E forse sta anche un modo ottimo di conoscerlo. Esatto. Le Makot, le piaghe, forse possiamo dire che racchiudono dentro di sé moltissime risposte a delle domande che tutti noi come esseri umani ci poniamo. E danno forse anche degli strumenti per gestire problematiche umane. Il Ramban Nachmanide, Rabbi Moshe ben Nachman, spiega nel suo commento sulla Torah, un po' più avanti, alla fine della Parashah di Bo, scrive: per quale motivo così tante delle mitzvot fanno riferimento all'uscita dall'Egitto? Shabbat, in memoria dell'uscita dall'Egitto. Tzitzit, in memoria dell'uscita dall'Egitto. Tante cose si dice Zecher Litziat Mitzrayim. Perché? Per ricordare un momento storico? Cioè, allora abbiamo Pesach per festeggiare questa uscita dall'Egitto. Cioè, perché tutte queste mitzvot sono legate alla Yetziat Mitzrayim? Dice perché HaKadosh Baruch Hu non fa in ogni generazione questo tipo di manifestazione, questo tipo di segni, di miracoli, per dimostrare a ognuno che va fuori dalla strada, lui gli dimostra il lampo, il famoso qui. No, non funziona così, come vediamo. Per questo ci invita sempre a creare questi segni, queste mitzvot che sono dei segni, dei simboli, per ricordarci quell'evento che era l'uscita dall'Egitto, che non è quindi solamente l'esodo, il momento, il fatto che prima eravamo lì e adesso siamo usciti dal confine. È tutto quel percorso, questo si intende Yetziat Mitzrayim, tutto il percorso mentale che abbiamo fatto. Il tipo di cultura la mentalità del faraone, quindi dell'Egitto, come noi consideriamo una cosa eretica, il tipo di eresia che era la sua, il suo pensiero, non era, non è che era ateo, non era questo il discorso. Non è che diceva non esiste Dio, noi siamo nelle nostre mani, noi abbiamo le nostre stesse forze, eccetera. Il faraone aveva un altro modo di vedere le cose. Quando Mosè è venuto dal faraone e ha detto, scusa, e ha detto, io sono stato mandato da Dio, tu devi fare così e così e così. Cosa era la reazione del faraone? Non era che stai parlando di Dio, io non sono credente. Non era questa la reazione del faraone. Lui era il Dio. La prima cosa che lui ha detto, io non conosco questo Dio. Cioè, forse c'è qualche Dio che tu dici di parlare, di aver ricevuto qualche messaggio da questo Dio, ma cosa c'entra questo Dio con me? Ha creato, è il creatore, è onnipotente, tutto quanto, però io sono indipendente, io sono padrone del mio destino, io sono padrone della mia vita. Quel grande Dio infinito, onnipotente, ha altre cose di cui occuparsi. Non si occupa di me, delle nostre cose, di questo mondo. Non è interessato di noi. E qui è arrivata la rana. La rana è arrivata in questo punto. HaKadosh Baruch Hu ha fatto vedere al faraone che anche la rana, che sta solo lì a disturbarti, che in teoria quell'ignorante di cui parlavamo prima può venire e dire questo è un essere che non serve a niente, HaKadosh Baruch Hu gestisce anche ogni singola creatura che è stata creata. Manager di ogni cosa. Dal momento della creazione e per tutta la durata della creazione. Anche una cosa che sembra marginale, che sembra che non ha questa importanza, o che non ha importanza, o che ha un'importanza, ma non è centrale all'esistenza della creazione, che il creatore dovrebbe occuparsi di cose esistenziali, non di cose marginali. Anche questa cosa qui, questa rana, porta una missione, e può, e ha una funzione, e ha un motivo di esistere, ha una shlichut, una missione. Possiamo forse suddividere le creature in questo mondo in tre gruppi. Alcuni elementi possiamo dire che danno un contributo positivo all'esistenza. Altre cose possiamo dire che danno un contributo negativo. Noi ci occupiamo molto come esseri umani a circoscrivere determinati fenomeni, perché diciamo quella è una cosa negativa, dobbiamo cercare di limitare, di fare. C'è però una terza categoria delle cose che sembrano a noi che siano innocue, cioè né possiamo trarre beneficio, a noi sembra, né ci rendono qualche tipo di danno o danno una cosa negativa. Sembra che siano così neutre cose che non fanno né bene né male, ecco, per dirla in maniera semplice. E forse la rana rientra in questa categoria. Uno potrebbe dire, ok, la rana fa le sue cose, serve per il suo ecosistema, eccetera, però non mi fa né bene né male. E di conseguenza sembra che questa sia la creatura, quello che rappresenta questa creatura, quell'elemento della creazione che non indica, non dimostra che c'è un Dio che guida la creazione. Sembra, quando guardiamo questo tipo di creatura, è come, ognuno fa quello che gli pare. Non c'è un messaggio, non c'è una direzione chiara. Succede quello che succede. La piaga delle rane era per togliere questa mentalità. Non era una piaga sul corpo, non era una piaga di natura molto grave a livello economico, non era una sofferenza come i primogeniti o gli animali feroci. Era un riassestamento del pensiero. Voi pensate di aver capito? Voi non avete capito. Avete pensato che tutto succede così come succede perché succede da solo? Ripensateci. Qual è l'indicazione? La rana. La piaga della rana. No, scusa, io non vedo un'altra interpretazione però di tutto questo. Per esempio, se noi guardiamo l'acqua come la parnassà dell'uomo, no? Come ebrei noi siamo, come hai detto tu, per l'ultima derascia che hai fatto, che diciamo che preghiamo il Dio di darci l'acqua, perciò la certo, parnassà. Certo, certo. Il faraone, bene o male, questa storia non la psicologicamente nemmeno accettava, perché lui era al Nilo. Bravo. Entrava il Nilo, arrivava, era solo guardare quanta. Questa era la derasha. Sì, sì. Quanta parnassà aveva, e lo dimostrano appunto quelle pietre che ci stanno, giusto? Sì, che danno il metro. Esatto. Sì, sì. Allora, il concetto è, la prima piaga d'Egitto è il sangue, perciò l'annullamento della parnassà. Bravo. Il secondo è che la parnassà può essere annullata da qualcosa di veramente che non ha nessun valore, come le rane, che escono da una realtà che non è mediata dalla parnassà, bensì è mediata da Kadosh Baruch Hu. Perfetto, esattamente quello che sto dicendo. Ah, stai dicendo questo? Sì, esattamente questo. Cioè, tu non davi importanza a quelle rane, certo. Ora quelle stesse rane, cioè un essere che, l'ho espresso in altre parole, un essere che in teoria innocuo non è legato alla tua parnassà, come lo esprimi tu il concetto, ma il concetto è quello. Quello stesso viene e ti dimostra che c'è un padrone a questa casa. Certo, però io dicevo, la prima, sì, no, la prima colpisce direttamente la parnassà. L'abbiamo detto anche seconda. Prima. Ah, certo, sì, sì. Perciò non è che è slegata, ossia, no, no. Nei disegni di Akash, no, no. Anche la nostra comprensione, c'è sempre una logica, sì, che sì, si sì. Può seguire. No, non stavo dicendo che è slegata. Anche prima abbiamo citato Rashi, che diceva è tutta una strategia, no? Una dopo l'altra, una cosa segue logicamente l'altra, no? Che certo. Non è slegata, ma... Sì, però quella delle rane sembrava... Mm-hmm. Sembrava diversa. Sì. No, invece è legato, sì. Sono d'accordo con te. Ok, allora, facciamo l'ultima citazione, che è dal Likutei Sichot al numero 4. Bekfira shel umot haolam, nelle varie modalità che i vari popoli del mondo possono sbagliare nel loro rapporto con Akadosh Baruch Hu, yeshnam kama dargot, ci sono diversi livelli nell'errore, nello sbaglio che si può fare. Nella perseveranza pure dell'errore. Nella perseveranza dell'errore. Umehen, alcuni di questi potrebbero essere. Eilu shem modim bemitziut Hashem, come dicevamo riguardo il faraone. Alcuni che potrebbero dire, noi riconosciamo che esiste un Dio, però non riconosciamo che tutto ciò che accade adesso in questo mondo dipende da Dio. Lui ha lasciato, ha creato e ha lasciato. Negano l'idea che tutto ciò che esiste ora dipende da Kadosh Baruch Hu, come disse il faraone, che Moshe Amar Paro, come disse il faraone, li yeori vani asitini, questo Nilo, questo fiume è mio e io mi sono creato. No? Io mi sono creato. Ani asiti tatsmi. Allora, qui c'era la risposta della rana. Al kach igia hamane bemakat tzvardea. Baale achayim baolam nechlakim le shalosh kvutzot. Possiamo, come dicevamo prima, suddividere gli animali, esseri viventi, in tre gruppi. Primo, elu shenotnim toelet chiuvit, quelli dai quali possiamo trarre un beneficio positivo, beneficio, che vuol dire positivo. Elu shenotnim toelet shlidit, quelli da cui possiamo trarre invece, potremmo trarre, vorremmo evitare di trarre un qualcosa di negativo, e quelli da cui non sembra ci sia qualsiasi beneficio. Velo sheinam notnim lechora kol toelet, quindi niente di male, ma neanche a livello di beneficio. Ubeo cheshnei asugei harishonim meidim al mitziuto kvodo shel habore, mentre le prime due delle categorie indicano la presenza di un creatore, cioè perché? Perché si vede che hanno uno scopo, che sia uno scopo beneficio o negativo, però c'è uno scopo. Asuga acharon, l'ultima categoria, e il nome Vate non spiega che c'è uno scopo, non spiega quindi, non indica che c'è qualcuno che li guida. Non indicano che c'è qualcuno che li ha creati, c'è Snowman, che c'è un artista, un disegnatore che li ha disegnati, c'è stata Bria. Zeus Amru Hazal, ed è questo quanto dicono i maestri. Ilulea Tzvardea, se non fosse per la rana, quale sarebbe stata la l'ultima riga? Quale sarebbe Echayaporea Mina Mitzrim? Come avrebbe punito gli egizi se non fosse per la rana? Come se dipendesse tutto da questo? Ben Balea Chaim, tra le rane, tra gli animali, rientrerebbe la rana, diciamo, nella terza categoria, dove non si vede esattamente qual è nel beneficio, nella parte problematica. Quando invece sono andati secondo la missione del Signore, quindi hanno fatto vedere, HaKadosh Baruch Hu ha dimostrato che tutta la creazione, diciamo così, è guidata da Lui, questo ha rotto quel modo di pensare, ha rotto i parametri culturali, i parametri della mentalità. Adavar Shavaret Klippat Mitzrayim, ha rotto la klippa, cioè la buccia, letteralmente, ciò che copre quello che c'è dentro dell'Egitto. Vegaram, questo ha fatto sì che, Viadum Mitzrayim che ani Hashem, che anche l'Egitto riconosca che io sono Dio. Itgalesh Shem Itnali Mishem Avayem. Molti credono che il problema più grande è quello della eresia, di non credere in Dio, dell'ateismo. Non è questo il problema più grande. C'è anche un altro problema, dice il Baal Shem Tov, e che è la piccolezza dell'uomo. Quando la persona si sminuisce, quando la persona non considera se stessa, cosa succede? Che sminuisce l'operato di Dio. Allora sì, però nella persona cosa succede? Allora non ha più così tanta importanza se faccio così o se faccio cosà. Tanto chi sono io? Sì, sminuendo l'operato di Dio, sminuisce se stesso e sminuisce il compito per il cui si trova qui e quindi va sull'errore. È brutto questo, perché dici non cambia niente. Esattamente questo! Esattamente questo è quello che voglio dire. Non, tanto non cambia niente. A che serve? Cosa cambia? La classica frase, no? E manco voi, questo è il pericolo molto peggiore rispetto a quello che dice ah, io non so cosa c'è, non c'è. Questa okay. È proprio eresia. Questo è peggio, è la vera eresia. Proprio non gioca. C'è anche un altro discorso. Come dire? Sì. Praticamente è per far conoscere che è Dio di tutto. Sì. Appunto. C'era gli egiziani, quello che dicevamo, da ogni divinità dava diciamo un loro attributo, c'è quello che fa l'amore, quello che dà la vita, quello sì, che dà... invece c'è uno per tutti, esatto, mentre dividevano le divinità gli egiziani, questo era unico, ecco dove bravo stava l'arano. Sì, allora Cesare aggiunge una cosa interessante, importante, gli egizi attribuivano a ogni cosa un'altra deità, esatto. Invece la rana indica no, Dio è Dio di tutto, non ci sono, molto bene. Il Baal Shem Tov dice, se una persona è troppo umile, cioè umile in maniera errata, questo lo allontana da Dio, lo allontana dal servizio di Hashem. Perché per la umiltà, non umiltà vera, per questa falsa umiltà non crede in sé e non credendo in sé non crede che quello che lui fa può effettuare, può avere qualche effetto, e di conseguenza dice che cambia. A che serve? Questo è bellissimo. È pure un blasfemo come discorso. Assolutamente sì. Sì, come dicevamo, è un'eresia, no? Ma una cosa. Scusa, solo vai, concludo. Vai. Cioè, perché il Baal Shem Tov dice, queste sono le parole del Baal Shem Tov, citato così, che la persona attraverso la sua tefilah, attraverso la sua Torah, fa sì che ci sia un flusso divino in tutti i mondi. Certo. E anche gli angeli si nutrono dalle nostre opere in questo mondo, la nostra Torah, la nostra tefilah. Se la persona si rendesse conto di questo, è chiaro che servirebbe Hashem con simcha, con gioia, con vitalità, con energia, con timore di Dio, eccetera, eccetera. Quindi, qui diventa ancora più valida la cosa che, non che diventa più valida, però noi capiamo meglio quello che dice Maimonide. Maimonide dice che una persona dovrebbe sempre considerare, prendere in considerazione, come se tutto il mondo fosse su una bilancia. E un'azione negativa, una bilancia equilibrata, una azione negativa può portare tutto lo squilibrio verso il male, diciamo così, cioè rendere un disequilibrio negativo, certo. E un'unica azione invece positiva può portare merito, certo, all'intero mondo, quindi un disequilibrio in senso positivo per il beneficio di tutto l'universo. Certo. Cosa vuol dire questo? Vuol dire quello che fai tu cambia qualcosa. Questo è un messaggio molto importante per noi, per la nostra gioventù, che dobbiamo trasmettere ai nostri figli, ai nostri nipoti. Non esiste l'idea, non cambia niente, che importanza ha, che gli importa questo, che gli importa quello. Cambia tanto. Se sei qui, sei qui per un motivo, e quindi quello che tu fai, quello che tu pensi, come ti esprimi, come parli, è tutto molto importante, è tutto molto valido, ed è tutto necessario, non c'è niente che non è, che è futile, che non è necessario, che è superfluo. Assolutamente sì. Solo un secondo, perché Riccardo già stava...